Ferry Boat, in viaggio verso l'economia sociale. Ferry Boat, sono Enzo Sarganti e traghettatore, ben arrivati. Partiamo subito con una notizia: fino a domani 500 piazze, cercate la farfalla di peluche ripiena di cioccolatini, è della UILDM, Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, e con questa farfalla è possibile attraverso un SMS donare 2 euro o 5 o 10 euro nel caso di telefono fisso per far contribuire alla lotta alla distrofia muscolare. Il numero per l'SMS, vi ricordo, è il 45509. Avete sentito più volte parlare dell'anno europeo dell'attività di volontariato, il 2011 ha questa caratteristica. Bene, ieri a Venezia c'è stato l'evento di apertura ufficiale di questo anno del volontariato, che avrà una durata che prevede anche la premessa per la sesta conferenza nazionale del volontariato, che si terrà nel 2012. Media e immigrazioni. A Trento invece c'è un confronto serrato sulla carta di Roma, su come la stampa segue le minoranze sui nostri giornali. Minority Stereotypi of Media, e questa è l'iniziativa che si tiene a Trento, ce ne parla Stefano Trasatti, direttore del redattore sociale. Buongiorno, sì, quel confronto di Trento è quanto mai opportuno, soprattutto in questo periodo in cui l'immigrazione domina le pagine dei nostri giornali e ovviamente TV e radio. È molto opportuno perché il giornalismo sul fenomeno immigrazione è stato negli anni scorsi molto in ritardo, se ne è occupato solo a lungo, solo in chiave politica o in chiave di devianza, di criminalità, e quindi adottandone il linguaggio e a volte usando con superficialità sia i dati e sia le parole, usando parole scorrette, pensiamo a vucumpra, clandestino, eccetera, che in qualche caso hanno toccato. Beh, si cerca molto l'effetto, no? L'effetto notizia, come al solito, la stampa cerca sempre il colpo di scena. È vero, però bisogna tener conto che questo è un fenomeno che sta cambiando radicalmente la nostra società e quindi non può essere più trattato con l'atteggiamento di chi si trova a parlare di una cosa esotica, occasionale, eccezionale. È un fenomeno che sta investendo tutta la nostra società, se ne dovrebbe parlare ad ampio spettro, con molta competenza. Ecco, con molta competenza. Obiettivamente, non perché sei qui fra noi, ma ti seguiamo da molti anni, come fai il tuo redattore sociale? Due battute ai nostri ascoltatori su che cos'è il redattore sociale, che ha ormai una storia intensa e non più giovanissimo, fra l'altro, vero? Ha compiuto 10 anni da pochissimo, è un'agenzia di stampa nazionale online, in abbonamento, che si occupa, noi diciamo, del disagio e dell'impegno sociale in Italia e nel mondo, e che intende fornire, soprattutto alle testate giornalistiche, ma anche alle istituzioni e alle associazioni, delle notizie quotidiane su tutti questi temi. Come dicevo, è online, quindi vi si può accedere attraverso il sito www.redattoresociale.it. E voi vi occupate invece tanto di temi che sono anche legati al no profit, e anche lì, come dire, i tempi non sono dei più tranquilli. Non sono dei più tranquilli, soprattutto intanto per un cambiamento, diciamo, epocale, per usare una parola molto usata in questi periodi, dello stesso terzo settore del volontariato. C'è un po' di crisi, c'è un cambio generazionale, un cambio proprio di obiettivi e di ideali, ma anche perché ci sono meno fondi per il sociale. Ci sono stati negli ultimi 3 anni quasi 2 miliardi di tagli ai fondi sociali, che poi sono quelli che vanno ad alimentare i servizi sui territori, che, guarda caso, sono gestiti in maggioranza dalle associazioni di terzo settore, volontariato, cooperative sociali. Grazie a Stefano Trasatti, il sito, vi ricordo, è redattoresociale.it. Abbiamo finito per oggi, vi ricordo come al solito l'indirizzo ferribot@radio24.it per segnalare le vostre iniziative, e il programma va in onda alle 6.50 alle 13.55 del sabato per l'edizione del weekend, alle 6.50 alle 14 l'edizione della settimana, sempre su Radio 24. Grazie ad Anita Panizia redazione e a Carmelo Lauricella in regia. A risentirci.